Sassa, di Barra Mobile. Buonasera Sandro. Finalmente ti sento forte e decente, dai, benissimo, vedi, devo venire da queste parti per sentirti bene. E dove sei, perché sei forte? Zona Conforama, lì sul retro. Non credo che sei forte qua. Scappa. Ma stai scendendo oggi, no? No, siamo in girella, ho portato la famiglia a prendere un po' d'aria e poi adesso scendendo andiamo zona mare e poi si rientra. Ah, cappa. Ah, sei sposato? Cappa, Roger. Cappa, non lo sapevo. Finalmente ci sentiamo, visto che da che non ci sentiamo mai. Io sono una zona brutta, ricevo basso e... A volte è più facile farmi sentire che riuscire a sentire qualcuno, quindi devo prendo quello che mi dà. Cappa. Mi aspetto un attimo, cambio il baracchino. Uso quello che uso qualche volta. Sentisco l'apparecchio, rientro subito. Quello che uso di digiuni con lei spento. Uso qualche volta spesso. Sì signore, già sono qua. Finché non mi danno l'ok per spostarci sono in radio, dai. Ci sta bene, l'altra era più forte come radio, proprio come modulazione era molto più forte. Vabbè, questo una via di mezzo, dai, questo è originale, un Intech 550 Power, non so se lo conosci. Sì, conosco bene, la linea del 548, FM600, tutta quella linea lì, sì. Questo è 550 Power, Intech. C'ha l'eco suo, il microfono è suo, è quello elettrico, come cavolo si chiama. È tutto suo, bip suo, è originale. Sì, in effetti il bip è un po' strano, perché solitamente la nota tende ad essere molto più corta, invece c'ha una nota molto lunga. È strano come Roger Bip. Come modulazione va bene, no, già va bene, è abbastanza standard. L'altro spinge di più. Questo mi piace per l'eco, ma l'altro spinge di più come modulazione. Però va bene. E quello là è un Gen Airbex 482 Airbex col microfono alla ZG-M95. Eh sì, allora tutto il lavoro di quell'altro lo sta facendo il microfono. Il 95 e il 99 di microfoni sono ottimi, spingono molto bene, quindi quasi tutto il lavoro se lo fanno loro. Ma pure questo è buono. Questo microfono però è originale. È il suo dell'apparecchio, c'è la capsula piccolina. Se su questa radio tu mettessi quel microfono lì andrebbe molto molto molto molto meglio. Con questo leggero eco che c'ha, probabilmente con il tipo di radio renderebbe di più quel microfono su questa radio. Non puoi mettere, perché fischia. Innesca? Pure è già applicato da per sé, con la sua cosa, capito? L'ho già messo il microfono applicato, ma fischia perché lui va già bene così. Ma l'M550 ha il mic gain, sì? Non hai provato a lasciare un microfono preamplificato ma abbassare il mic gain in modo sufficiente che non inneschi? Ma dico una cosa, guarda, questa va bene così, secondo me, io l'ho sentita e va bene così. No, che vada bene nessun problema. E se fai un paragone fra una e l'altra, tenendo conto che l'Elbex è un prodotto di qualità inferiore rispetto a questo, come modulazione spinge un pochino di più, quindi probabilmente si trattava solo di trovare l'impedenza giusta per fare in modo che non innescasse e ottenere dei toni più alti, un pochino più acuti. Ecco un attimo che farò vedere una cosa. E siamo qua, ci stiamo godendo il sole. Ho lo spalviero che ha finito di riposarsi, sono già le 4:10, dai, c'è l'ora di far visita adesso. Un pochettino, abbassa un pochettino già fa. Più chiara la cosa, se col K. La 50 e il gringhello sono pronti, quindi mi devo staccare dalla barra mobile. Ci aggiorniamo dopo se sei ancora in radio quando mi sposto per salutarti. Ciao! Non mi ricordo il nome. C'era Sandro Conard, ci sentiamo, dai. Capa Roger, dai, ci sentiamo più tardi. Bye bye, QRT. Finalmente ci siamo sentiti. Sì, infatti. Dovevo capitare io qua in queste greche sassa, dai. Ci sentiamo dopo, bye bye. Senz'altro, dai. Un secondo che sto prendendo un pezzo di cavo laggiù, già fa. Faccio chiamata. Thank you.